Dario Ricci. Cambiare per sopravvivere, per esistere, per esserci ora e tornare a esserci ancora meglio in futuro. Lo abbiamo fatto in tanti in questi tempi difficili e lo sta facendo anche lo sport. Lo stanno facendo molte discipline che cambiano, si adeguano alle misure anti-Covid per venire a patti, per ora, col virus, sperando di tornare al più presto alla normalità. Di questo vogliamo oggi parlare a Olimpia, per vedere come lo sport sta cambiando sotto la pressione della pandemia e cosa magari rimarrà in futuro di questi cambiamenti, quando il coronavirus sarà, speriamo davvero presto, solo un ricordo. Ne ragioniamo con il nostro primo ospite grossetano, classe 1948, Alfio Giomi, presidente della Federazione Atletica Leggera Italiana, ben trovato a Olimpia, la città dello sport. Buon pomeriggio a tutti e grazie per questa opportunità che mi date. Presidente Giomi, tanti gli atleti azzurri che sono stati in prima linea contro la pandemia, molti nelle corsie d'ospedale, addirittura come medici o infermieri, alcuni, e ricordiamo su tutti Donato Sabbia, campione del nostro mezzo fondo veloce, che ne sono anche rimasti vittime. L'atletica in prima linea perché nella realtà poi è fortemente inserita nella nostra società e quindi è evidente che ex atleti o persone che tuttora fanno atletica ma già sono inserite nella società in maniera forte, in una situazione come questa che stiamo vivendo ancora e che ha avuto momenti assolutamente tragici, ci ha trovato comunque presenti nel bene e nel male. Questo è perché appunto siamo fortemente radicati nella società. Noi abbiamo oltre 3.000 società, i nostri comitati regionali sono presenti in maniera forte sul territorio, abbiamo un rapporto forte appunto con tutti coloro che hanno un legame con l'atletica, sono oltre 300.000 quelli formalmente tesserati. Quindi è chiaro che nel bene e nel male ci troviamo dovunque. Proprio gli 800 metri, a proposito, specialità in cui eccelleva Sabbia, sono la prova che, secondo le vostre proposte, cambia di più. Ecco, ci spieghi un po' meglio. Ma dunque noi abbiamo fatto due proposte, le abbiamo sottoposte alla World Athletics, che le ha accettate con entusiasmo e quindi le ha rese ufficiali. In pratica sono due ipotesi. Una, si corre in corsia con nuovi scalari e quindi praticamente oltre a 400 in corsia c'è gli 800 in corsia. L'altro, si corre al cronometro. Si parte ogni 6-8 secondi a seconda di quella che è il tipo di pista, 6-8 corsie, in maniera tale che ci sia sempre una distanza fra gli atleti, non si incontrino mai, e praticamente come ognuno arriva viene letto il tempo, esce sul tabellone e quindi con l'arrivo degli ottavo si è composta la classifica. Ci sono venute in mente queste idee in particolare per cercare di completare le prove multiple in cui si poteva fare tutto e poi veniva un problema per gli 8.500 e quindi questa idea della gara a cronometro ci ha risolto il problema. Cioè noi questi l'abbiamo pensato molto tempo fa, il nostro disciplinare è datato 8 aprile e quindi da allora abbiamo cominciato ad immaginare cosa avremmo fatto, diamo conto che molte delle norme che noi abbiamo dettato sono già superate, quindi possiamo guardare avanti con maggior ottimismo. Però nel frattempo abbiamo dei punti fermi, ad esempio questo degli 800. E altre modifiche imposte dalle misure di sicurezza? Guardi, uno era quello delle corsie alternate per tenere gli atleti ancora più lontani. Cioè già da noi però correre in corsia che sono larghi 1,22 è sufficiente, quindi quello che un mese fa sembrava un must oggi chiaramente è un problema probabilmente superato. Noi abbiamo pensato nella gara di salto in alto a far sì che ogni atleta fosse dotato di un proprio telo, quindi per far sì che non cadessero tutti sullo stesso superficie. Oggi probabilmente anche questo è superato, anche se lasceremo l'opportunità agli atleti di farlo perché qualcuno si è innamorato, per così dire, comunque il proprio telo e si sente, se vogliamo, ancora più sicuri. Quando siamo partiti c'era addirittura il problema della sabbia, della zona di caduta nel lungo e nel triplo. Con l'apertura degli arenili è chiaro che il problema in questo senso è completamente superato. Così come c'erano tutta una serie di situazioni prima di entrare in campo, una con room molto più ampia, tempi molto più ampi. È chiaro che tutto questo con la normalizzazione della situazione si stanno attenuando, per cui sempre massima attenzione alle distanze, massima attenzione a tutte le norme del settore sanitario, però si comincia ad andare verso delle gare che siano molto più vicine a quelle che erano nella realtà. Il problema vero rimane per le corse su strada e comunque per le gare di mezzo fondo. dove al momento anche lì stiamo studiando situazioni per partenze differenziate per evitare assembramenti e stiamo proponendo soluzioni nuove che riteniamo ci possano consentire comunque a partire dal 1° settembre di riaprire con tutta la nostra attività, compresa quella su strada, anche se con accorgimenti nuovi rispetto al vecchio sistema. Ecco, ci può dare qualche anticipazione, Presidente Giomi? Ma guardi, noi stiamo praticamente studiando un'app e stiamo facendo delle gare in questo momento di corsa a montagna di trail che prevedono che si possa partire, che so, nell'arco della giornata. Quando l'atleta vuole, uno distante dall'altro, ed avere di ognuno di queste gare il tracciato e la classifica nel momento in cui arriva. Stiamo adattando questa app, abbiamo chiesto a un gruppo di giovani ricercatori innamorati dell'atletica di trasportare questa app che per la prima volta è stata sperimentata in Abruzzo, ci sarà una gara anche questo fine settimana in questo senso, gli abbiamo chiesto di sviluppare pure questa app pensando alla corsa su strada. Cosa dovrebbe consentire? Dovrebbe consentire in assoluta sicurezza, a partire dalle iscrizioni, ritiro numeri, presentazione sul campo di gara e partenza, di mantenere i concetti di distanza che sono quelli fondamentali. Però grazie a questa app nel giro di 2 ore probabilmente potremo riuscire a far partire anche qualche migliaio di persone. Quindi stiamo studiando questo aspetto perché sarebbe un passo avanti decisivo anche per poter riaprire tutta l'attività del running su strada. Il che varrebbe anche magari per le gare amatoriali, le corse della domenica, diciamo così. Cioè se noi 5.000 persone invece di farle partire tutte insieme in fila riusciamo a farlo partire nel giro di 1 ora, 1 ora e mezzo e ognuno attraverso quest'app ha il tempo nel momento in cui parte, ha il controllo durante la corsa e quando arriva il tempo reale di quello che ha fatto, che va a inserirsi volta per volta nella classifica di chi arriva volta per volta, riusciremo ad avere una gara che mantiene molti di quelli che erano le caratteristiche appunto della gara stessa con tantissime persone, ma nello stesso tempo riesce a garantire quel distanziamento tra le persone che mi sembra in questo momento rappresenti la forma migliore di prevenzione. Queste modifiche, o meglio adattamenti, hanno però fatto storcere il naso a molti puristi, Presidente Giomi. No, ma io sono un purista. Cioè, io credo che la grande bellezza dell'atletica sia la sua universalità e quindi non è cambiando le formule che si rende più popolare l'atletica. Ma noi dobbiamo utilizzare la tecnologia di oggi. Cioè, un conto è mantenere lo stesso tipo di gara, e io non sono dell'idea di stravolgerla, un conto è utilizzare la tecnologia di oggi per renderla ancora più spettacolare. Noi questo è quello che stiamo facendo, cerchiamo di adattarci alle situazioni. Nessuno vuole cancellare gli 800, la lotta spalla a spalla o meno, è una parte essenziale dell'atletica. Ma nel momento in cui questa non la posso fare, io devo cercare di trovare qualcosa che si avvicini il più possibile. A qualcuno piacerà di più, a qualcuno piacerà di meno. Però dimostri di essere vivo, dimostri che sai affrontare le situazioni, dimostri anche che di fronte a situazioni gravissime come quella di oggi, l'atletica, che è lo sport universale, non si ferma, trova soluzioni nuove. E quindi io credo che questa sia la miscela giusta. Anche perché immagino non sono scelte che sono state fatte a cuor leggero, ecco. C'è stata una mattina in cui di fronte al dramma che stavamo vivendo ho detto ma è possibile di fronte al dramma che viviamo, al numero dei morti che tutti i giorni ci vengono comunicati, a quello che vediamo, dobbiamo pensare in fondo al nostro sport, a come mantenerlo vivo? Dentro me sono chiesto ma è giusto, vale la pena? E poi la risposta è assolutamente sì. Perché dobbiamo continuare a vivere e quindi dobbiamo continuare a essere ottimisti, a guardare avanti, dobbiamo pensare a quando questo sarà finito e dobbiamo far sì che questo dramma alla fine sia stata anche un'opportunità per essere migliori, per cercare strade che fino a ieri non avevamo percorso. Quindi assolutamente proprio l'università dell'atletica fa sì che debba essere in prima fila nell'affrontare anche i cambiamenti e nel saperli gestire. Ottimismo e futuro, quindi le parole d'ordine. E allora le chiedo, Presidente, a Tokyo il prossimo anno, secondo lei, per le Olimpiadi ci si andrà e con quali prospettive per la nostra atletica? Non posso non pensare che non si vada a Tokyo. E direi a Tokyo l'atletica azzurra sarà protagonista, al di là della medaglia di una, tante o nessuna che vincerà. Io vorrei uscire un po' dal valutare una spedizione soltanto sul numero di medaglie. valutiamola nel suo complesso. In atletica vincere la medaglia è comunque difficile. Porti 10 atleti in finale, magari 2 o 3 staffette e poi collezioni 5 quarti posti. È meglio questo o magari vincere una medaglia nel deserto poi gli altri finalisti? Io non ho dubbi, e quello che a me interessa è quello su cui sicuramente la squadra italiana si farà valere, è sulla capacità di tanti atleti di dare il massimo, di entrare o sfiorare la finale, e magari, ripeto, con più di una staffetta. Poi a quel punto in finale ce la giochiamo, può accadere di tutto, però la cosa fondamentale è di essere presenti e dare l'immagine di un'atleta italiana viva, come viva nella realtà, viva più di sempre. Un'atletica viva e viva l'atletica. Allora, e grazie al presidente della Federatletica, Alfio Giomi, per essere stato oggi nostro ospite. Ora una breve pausa, poi vi aspetto ancora insieme qui a Olimpia, la città dello sport. Olimpia. Cambiare per sopravvivere, cambiare per non sparire, ma anche cambiare, perché no, per migliorarsi. È quello che sta facendo lo sport, che lo stanno facendo tutti gli sport, messi all'angolo dalla pandemia, da un virus davvero nemico dell'attività fisica. E allora oggi a Olimpia stiamo indagando su come stanno cambiando appunto gli sport in questo periodo così particolare. Ne abbiamo parlato col presidente della Federatletica, Alfio Giomi, e ora continuiamo a farlo col nostro secondo ospite, Riccardo Provvedi, benvenuto a Olimpia, la città dello sport. Grazie, ben trovati a tutti. Ex allenatore di A2 di volley, ora insegnante di educazione fisica in una scuola ad Assisi, Riccardo Provvedi ha preso carta e penna e, da amante della pallavolo e dei suoi ragazzi, ha ridisegnato il campo, i ruoli, gli spazi del terreno di gioco, del campo di gioco, per poter giocare in sicurezza. È nato così il Secure Volley. Provvedi, ci spieghi un po' meglio? Io mi sono posto il problema di come poter aiutare i tanti ragazzi, giovani, le ragazze che praticano pallavolo, cercando di dare il massimo delle garanzie possibili da un punto di vista di salute alle proprie famiglie. E quindi in questo senso ho analizzato un po' quali sono le criticità del nostro sport, e quindi essenzialmente sono dovute al fatto che comunque all'interno del proprio campo c'è possibilità di anche contatti, quindi di stare molto vicini, non rispettando le distanze e il distanziamento di un metro. E poi, ecco, la densità dei giocatori in campo è un'altra criticità, nel senso che siamo in tanti in uno spazio relativamente piccolo di 81 metri quadri, e da ultimo il contatto, o comunque il non contatto ma la vicinanza estrema con l'avversario nelle azioni di muro attacco. Per cui ho pensato a un gioco che potesse risolvere queste criticità, permettendo ai ragazzi di fare un'attività che non è pallavolo, perché di fatto questo sarebbe uno sport diverso, quindi non è la stessa cosa, però richiama quanto più possibile la pallavolo, cercando di evadere queste criticità che rappresentano, insomma, il problema che al momento non consente di praticarla in sicurezza. Quindi un'idea di fatto nata in casa, insomma, durante il lockdown. Sì, è nata questa idea artigianale, no? Nel senso che, come dici tu, pensata a casa, e alla fine il Secure Volley, così l'ho chiamato, è un'idea di pallavolo simile a quella che si gioca normalmente. Le caratteristiche diverse sono il fatto di dividere il campo in settori, quindi avere 4 settori delimitati, giocare non più in 6 giocatori all'interno del campo, ma esclusivamente in 4 giocatori all'interno di questi settori, più 3 esterni fuori dal perimetro. E i settori sono rigidamente delimitati, nel senso che non si può, a differenza di quanto avviene nel volley, invadere settori non propri, e quindi di fatto si va a giocare esclusivamente in queste aree di 4 metri per 3, e senza avere possibilità di sconfinamenti. Quindi di fatto diciamo che abbiamo una linea che divide questi settori di circa un metro, cioè di larga un metro, e praticamente va a delimitare le zone mantenendo una distanza di sicurezza. E dopo, l'altra variazione rispetto al volley è che c'è una distanza di 2 metri dalla rete, che è una zona rossa dove non si può entrare. Quindi questo toglie il problema della vicinanza con il giocatore avversario che fa muro. Ecco, le confesso, ci piace molto più questa rispetto ad altre zone rosse, dove pure in questa per qualche istante ci si può entrare, giusto? Sì, esatto. Ci si può entrare per 2 secondi, in modo da consentire di fatto uno spostamento all'interno di questa zona per fare un'alzata, oppure per recuperare un'eventuale ricezione o difesa diciamo, gestita in maniera poco precisa, quindi ci si può entrare, gestire il pallone e uscire subito dopo, quindi consente un passaggio in questa zona. Ovviamente, siccome in contemporanea nell'altro campo ciò non avverrà, ci sarà sempre il corretto distanziamento. Massima attenzione, vero, anche alla sanificazione della palla. Sì, perché questa, diciamo che negli sport che utilizzano la palla potrebbe rimanere la criticità più grande, quindi ancora la scienza non ci ha dato risposte sicure, quindi non sappiamo se di fatto la palla è un veicolo di contagio, ma potrebbe esserlo. Quindi in questo senso noi abbiamo pensato di sanificare la palla prima dell'inizio del gioco e cercare di prevenire qualsiasi forma di contagio derivante, insomma, dall'attrezzo della palla. Il tabù del giocare a pallavolo con i guanti, che ne pensa? Provvedi? Io credo che i tabù in questo momento vadano messi in discussione, perché di fatto siamo di fronte a una situazione inedita e si devono pensare situazioni inedite, no? Queste a volte fanno sorridere, come la mia proposta ha fatto sorridere molti giocatori di pallavolo, allenatori, ed è normale, ma come ha fatto sorridere la proposta di isolare con il plexiglass le spiagge, no? O i ristoranti con questi pannelli. Però purtroppo siamo in un momento che, se vogliamo passare dal nulla al fare qualcosa, bisogna pensare soluzioni che escano un po' dai paletti, no, mentali, che a volte abbiamo. E da questo punto di vista anche i presidi, quindi mascherine e guanti, andranno attentamente pensati. Io a sensazione credo che forse sarà più le mascherine il presidio da utilizzare, i guanti forse di meno, perché di fatto se io evito di toccare con le mani e poi parti del viso, non dovrei avere problemi, quindi magari abituandosi forse questo possiamo ovviare. E poi non dimentichiamolo, ci sono i contatti tra compagni di squadra, che nella pallavolo sono d'abitudine. Sì, nella pallavolo c'è proprio l'abitudine anche al contatto fisico all'interno della squadra, non c'è contatto fisico con l'avversario, ma all'interno del proprio team c'è proprio una, come dire, un'empatia che viene trasferita da queste gestualità. Chiaramente in questo momento andrebbero tolte, e questo purtroppo è così, è un po' la particolarità di questo virus, che di fatto per combatterlo ci costringe a staccarci, a essere meno fisici, no? Nella vita di tutti i giorni e altrettanto nello sport. Però credo che questi siano aspetti più risolvibili, come il discorso degli assembramenti sui time out. Sono aspetti dove, insomma, con qualche cautela si riesce sicuramente a tamponare. Insomma, piuttosto che stare fermi o sparire, meglio adattarsi, lavorando di fantasia e creatività. Secondo me è proprio questa l'idea, cioè nel senso cambiare un pochino prospettiva in modo da mettere in campo qualcosa, e se ci costringe ad alcuni adattamenti, d'accordo, li faremo, ma non per questo rinunciamo a fare movimento, a fare attività. Quindi ecco, bisogna più che altro pensare a come ci possiamo adattare, soprattutto nella fase iniziale di riavvicinamento alle varie attività sportive, perché poi è chiaro che le dinamiche dello sport di vertice sono diverse, quindi quando parliamo di squadre di calcio di Serie A oppure una nazionale giovanile di volley, dove magari vivono perennemente insieme, si può anche pensare a un ambiente isolato dove questi ragazzi mangiano, dormono e vivono in una struttura delegata a loro e non hanno molti contatti con il mondo esterno. La palestra è destinata solo a loro, o il campo di calcio, quindi lì puoi ragionare in un altro modo, cioè ragionare su una comunità chiusa che vive in ambiente sanificato e, diciamo, destinato esclusivamente a loro. Per i giovani la soluzione che ho pensato io è, perché chiaramente abbiamo un contesto completamente diverso, e quindi la mia idea è quella di proporre alle famiglie qualcosa che gli dia garanzia di sicurezza, la tranquillità di lasciare i ragazzi, insomma. Reazioni, ecco, ne ha avute alla proposta del Secure Volley? Ma guarda, per ora, come ti dicevo, magari c'è ancora una difficoltà nell'aprire la mente, no? Anche perché non siamo in palestra, quindi al momento non abbiamo potuto verificarla sul campo. Ho avuto privatamente tanti attestati di tante persone che, insomma, hanno ritenuto una buona idea, perché soprattutto allenatori, persone che vivono la problematica reale che si è creata ora, la vivono come un'opportunità, e quindi in questo senso iniziano a ragionarci, pur essendo uno sport che per certi versi si allontana dalla pallavolo, però offre un'opportunità di ritornare in palestra quanto prima. Magari per tanti altri appassionati chiaramente ancora è uno scoglio difficile da superare, però ripeto, è un po' come il discorso di valutare se andare in vacanza o meno rispettando certe distanze, oppure se entrare in un mezzo pubblico o meno, sapendo che comunque ci saranno da rispettare delle regole, dei posti liberi, eccetera. Quindi a me personalmente non spaventa, come dire, l'impasse iniziale, perché sono convinto che, insomma, bisognerà provare piano piano adattarsi e vivere quelle che sono le sensazioni di palestra. E allora, Riccardo Provvedi, a noi di Olimpia il Segur Volley è piaciuto parecchio, piace parecchio, e chissà che non abbia un futuro a sé stante, anche oltre la pandemia. Intanto grazie per l'idea e per l'esempio che ci ha dato e per essere stato oggi ospite di Olimpia, la città dello sport. Grazie a te, grazie a voi, e crepi il lupo, e grazie ancora a tutti. Anche per quest'anno Olimpia si prende qualche settimana di vacanza, ma rimaniamo a farvi compagnia. A luglio, con Sfogliando Olimpia, parlando dei grandi libri della storia dello sport, e poi ad agosto con un programma tutto nuovo, Olimpia Green Sport for Nature. Vi racconteremo le storie e le esperienze dei campioni impegnati nella tutela e nella difesa dell'ambiente. Quindi rimaniamo a farvi compagnia, ma intanto, alla fine di questa stagione così particolare e difficile, un grazie di cuore, un mio personale ringraziamento di cuore a tutti i tecnici registi che si sono alternati alla regia di Olimpia e che hanno fatto davvero miracoli, oltre a confezionare sempre delle splendide puntate. Io mi fermo qui, ma ci risentiamo già settimana prossima con un nuovo appuntamento con Sfogliando Olimpia. A prestissimo. Olimpia, miti e verità dello sport. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet radio24.it.